e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. A bordo campo di Dario Ricci. Buona giornata da Dario Ricci. Beh, emozioni forti quelle che ci ha regalato e ci sta regalando l'estate 2012 in tema di sport, dagli europei di calcio in cui, ahi noi, l'Italia ha solo sfiorato la vittoria, fino alle imprese dei campioni di Londra 2012. Ma oggi facciamo insieme un tuffo nel passato per ripercorrere quattro grandi storie di sport, quattro grandi personaggi che hanno fatto la storia dello sport mondiale. Mohamed Ali, Rocky Marciano, la grande Italia del basket che è guidata da Sandro Gamba conquistò l'Europeo del 1983 a Nantes e poi il grandissimo Gilles Villeneuve, forse il pilota più amato che abbia mai guidato una Ferrari. Quattro grandi storie di sport che riviviamo insieme, perché la storia dello sport inevitabilmente racconta anche la storia di ognuno di noi. E allora partiamo da The Greatest, il più grande di tutti, Mohamed Ali. I am the greatest, and I whoop any man in the world, and I want everybody out there on TV to know it. I am the greatest. Re del pugilato, dominatore del ring, coscienza dell'America. Per molti anni è stato Cassius Clay, poi è diventato Mohamed Ali. Per tutti è stato, semplicemente, il più grande. Mai il pugilato aveva conosciuto un peso massimo così veloce, agile e potente. Mai prima di lui il mondo dello sport aveva avuto un campione tanto capace di incidere nella vita, nella storia, nel proprio tempo. I suoi pugni e le sue parole cambiarono il volto dell'America e del mondo tra il 1960 e gli anni 80. In Ali il talento del pugile, l'impeto del grande comunicatore si fondevano in qualcosa di nuovo, diverso, unico. Rino Tommasi, voce storica della box mondiale. Io ho avuto la possibilità un giorno di accompagnarlo in macchina dall'aeroporto di Roma fino al Colosseo, perché sua moglie voleva vedere il Colosseo. Ebbene, la conversazione con Ali era perfettamente normale, il problema nasceva se attorno c'erano 10 persone. Ecco che allora lui sentiva la necessità di recitare, ecco, doveva essere fedele al suo ruolo e diventava un personaggio. E questo naturalmente ne ha ingigantito la popolarità, al di là dei risultati che sono stati straordinari. Proclamo l'apertura dei Giochi Olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna. This is a man's world. Proprio da Roma parte la stella di Cassius Clay. Alle Olimpiadi del 1960, ad appena 18 anni, Clay vince la medaglia d'oro nei medio massimi. È la chiave che gli apre le porte della grande box, quella americana. Luca Di Franco, che al pugilato Made in USA ha dedicato studi, racconti, libri. E negli Stati Uniti, chi vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi diventa istantaneamente una grande stella dello sport. Quindi Cassius Clay trovò subito i finanziatori che gli permisero di diventare professionista. Quindi Cassius Clay, che era un ragazzino, trovò subito delle persone che lo finanziarono, permettendogli di dedicarsi dalla mattina alla sera al pugilato. Un ragazzino, certo, ma che personalità! Sentite questa! Questi finanziatori gli chiesero di allenarsi con Archie Moore, un ex campione del mondo dei pesi medio-massimi. Questi era abituato ad approfittarsi dei suoi giovani pugili. E allora disse a Cassius Clay: spazza il pavimento della palestra. Clay rispose: io non spazio il pavimento di casa mia quando mia mamma me lo chiede. Figurati se spazio il pavimento della tua palestra se tu me lo ordini. Se ne andò e disse ai suoi finanziatori che non avrebbe mai voluto più rivedere Archie Moore. E allora si rivolse ad Angelo Dundee, che era l'allenatore più in voga in quel momento. I finanziatori chiamarono Angelo Dandi, gli chiesero se voleva occuparsi di Ali e lui rispose di sì, però non era possibile incontrarsi prima di 3-4 mesi. Lo riferivano a Cassius Clay, il quale disse: «Io non posso aspettare 3 mesi, prendo il primo aereo». In quel momento Angelo Dandi capì che Cassius Clay voleva veramente allenarsi con lui e disse: «Quando arriva lo prenderò con me». Nacque così quell'amicizia tra Clay e Dandy che segna tutta la carriera del più grande. Talento e lavoro lo portano in alto. Nel 1961 esordisce tra i professionisti battendo Lamar Clark per KO. Ma l'obiettivo è il titolo mondiale. Febbraio 1964, Miami. Cassius Clay affronta il detentore del titolo, Sonny Liston, per la corona dei pesi massimi. La svolta all'inizio del 7° round, quando Liston dice basta. They might be stopping it. That might be all, ladies and gentlemen. Bedlam breaking out. Bedlam busting out. Well, great. I don't have a mark on my face. Yeah. And I upset Sonny Liston. And I just turned 22 years old. I must be the greatest. Il primo incontro è stato interrotto per un infortunio alla spalla difficile da verificare. La rivincita è stata programmata a Lewiston, una cittadina del Maine di 50.000 abitanti, in un locale che teneva 1.500 spettatori, laddove avrebbe riempito qualsiasi palazzo dello sport del mondo. Inoltre è stato arbitrato da Jersey Joe Walcott, ex campione del mondo dei pesi massimi, che non aveva nessuna esperienza specifica come arbitro. The former heavyweight champion and now the challenger, Sonny Liston. His opponent from Louisville, Kentucky. He's wearing white trunks. He weighs 206. The heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Muhammad Ali, better known as Cassius Clay. La rivincita è decisa dopo appena un minuto da un colpo di Ali passato alla storia come il Phantom Punch, il pugno fantasma. Io sono sicuro che quel pugno non sia mai arrivato a destinazione. Io sono convinto, insomma, che i due incontri con Liston siano stati truccati. Penso anche che Ali li avrebbe ugualmente vinti, ma chi dirigeva in sostanza l'operazione non voleva rischiare. Avevano tra le mani un personaggio che poi ha dato i risultati che poi ha dato e non potevano rischiare, perché è vero che erano tutti e due neri, ma lì era un nero che piaceva anche ai bianchi. Sonny Liston si portava dietro un passato poco per bene, ecco, quindi non era una buona immagine per il pugilato. Nel frattempo Cassius Clay era diventato Muhammad Ali. Decisiva per l'adesione alla nuova fede l'amicizia con il leader nero musulmano Malcolm X. Cambia il nome, ma la classe e il talento rimangono uguali. Tra il marzo del 65 e il maggio del 67 Ali difende il suo titolo 9 volte. Ma quello che non riescono a fare gli avversari, cioè batterlo, lo fa la guerra del Vietnam. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Sono un obiettore di coscienza. Così Muhammad Ali risponde alla chiamata dell'esercito americano che vorrebbe spedirlo per la leva a combattere in Vietnam. È il 28 aprile 1967. Ali sa che quel no può costargli caro, come ricorda Luca Di Franco. I Viet Cong non mi hanno fatto niente, quindi io non vado in Vietnam a sparare addosso ai Viet Cong. Questa fu proprio la frase che disse un giornalista. Il giornalista Howard Cosell gli ricordò che era molto amico suo: stai attento a quello che dici, perché finché lo dice un politico lo ascoltano solo i politici, a te ti ascolta tutta la nazione. E quindi metà della società americana, quella che vive con la guerra perché le industrie di armi, i politici, ti si scaglieranno contro. Lui, nonostante questo, disse: io sono stato più tempo povero che ricco, se non mi permettono di lavorare e torno povero mi riabito subito. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. La commissione atletica che decide se dare o no le licenze ai pugili, senza licenza non si lavora, revocò immediatamente la licenza a Cassius Clay, lo destituì da campione del mondo e ancora oggi il suo allenatore dice: il mondo non ha visto l'età d'oro di Cassius Clay. E quindi proprio in quel momento lì lui avrebbe offerto il miglior spettacolo pugilistico, però in barba a tutto questo la commissione disse: noi ti proibiamo di salire sul ring. Ali tornerà sul ring solo nel 1970. L'obiettivo è avere un'altra chance per il titolo. L'8 marzo 1971 affronta Joe Frazier al Madison Square Garden di New York. Per molti è il match del secolo. Per Ali è la prima sconfitta, i punti della sua carriera. L'occasione mondiale torna il 30 ottobre 1974 a Kinshasa, Zaire. Ali affronta il campione in carica, il favoritissimo George Foreman. Il match, durissimo, passerà alla storia come The Rumble in the Jungle, la rissa nella giungla. Il più grande conquista la folla e ribalta il pronostico. È stata un'avventura, tra l'altro anche questa ingigantita da quel mese di attesa, perché l'incontro fu rinviato per un infortunio subito da Foreman. E questo naturalmente ha creato una situazione locale che immediatamente Ali ha volto a suo favore. Ali ha conquistato il pubblico in quel mese lì, ha messo KO Foreman, non tanto sul ring, ma lo ha messo KO nei 30 giorni che ha vissuto a Kinshasa in attesa dell'evento. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. Io mi ricordo, io non sono un grande intenditore di musica leggera, però Miriam Makeba mi dicono che fosse una cantante, era tre metri alle mie spalle, in piedi sulla sedia, che urlava Ali Boumaye, che voleva dire Ali uccidilo, ecco. Il 1 ottobre 1975 arriva anche il momento della resa dei conti con Joe Frazier. È il terzo incontro fra i due campioni, che hanno vinto una volta a testa. Dopo 14 round, sul ring di Quezon City, nelle Filippine, l'allenatore Eddie Foch impedisce a Frazier di continuare il match. Per Ali è il trionfo. Eddie Foch comes to him, and somebody in that corner wants to stop the fight. Somebody in Frazier's corner is saying he ought to be stopped. They're arguing about it. Gli ultimi anni della carriera di Ali sono sempre nel segno del titolo mondiale. Prima lo perde, poi lo riconquista contro Leon Spinks. Il 27 giugno del 1979 Ali annuncia il ritiro da campione in carica. Ma il richiamo del ring è troppo forte. E pochi mesi dopo, il 2 ottobre 1980, Ali sfida per il mondiale massimi WBC Larry Holmes, che prima di arrivare alla corona era stato un suo sparring partner. A salvarlo dall'umiliazione del KO è solo il coraggio di Angelo Dundee.

non fu un uomo fedele, era un uomo molto, molto tentato dal sesso. La sua ossessione erano le ragazze, e soprattutto insomma le minorenni. Si disse anche che il 31 agosto del 69, proprio un giorno prima di compiere 46 anni, Marciano, che viveva in Florida a Fort Lauderdale, chiamò la famiglia dicendo che appunto avrebbe fatto tardi, però che sarebbe arrivato in tempo per il compleanno. Prese, nonostante ci fossero minacce di nubi e di temporali, un passaggio su un Cessna 127, perché gli avevano detto che appunto che in questo posto dove andava a fare le conferenze c'era una 17enne così in premio. Quell'aereo da Chicago a Fort Lauderdale non atterrerà mai. Chi volava con Marciano affittò un pilota che in realtà, pensate, faceva l'impresario edile, cioè aveva volato pochissimo di notte, aveva solo 35 ore all'attivo. Per cui l'urto di questo Cessna, quando arrivò il temporale, vuol dire di sera, che urtò contro una quercia in un campo di grano, fu assolutamente violento. E quando la polizia suonò di sera alla porta di casa, trovò le torte con gli ospiti, con la candelina in mano, insomma, perché tutti quanti appunto aspettavano la festa del compleanno di Rocky Marciano. La vita di Marciano si chiude con quello schianto. A sopravvivere però ancora oggi è il mito del bombardiere di Brockton. A bordo campo. Secondi da giocare, e adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro, si può portarcela via. Scusate se sono un po' emozionato e un po' anche, lo confesso e me ne scuso, commosso, ma in 30 anni di telecronache, in 16 campionati europei che ho veduto, mai avevo visto una squadra italiana trionfare come sta facendo la squadra azzurra questa sera. La voce indimenticabile è di quello che è stato il cantore e il profeta del basket italiano, Aldo Giordano. L'impresa che commuove l'uomo che ha raccontato migliaia di partite sui parquet di tutto il mondo è forse la pagina più bella della lunga storia della nostra pallacanestro. L'oro vinto dall'Italia ai campionati europei nel 1983 a Nantes, in Francia. Era una pallacanestro diversa, quella che si giocava più di 20 anni fa, così come diverso era il mondo. Per i giocatori europei l'America, con il suo campionato professionistico NBA, era ancora un sogno lontano, ma che cominciava lentamente ad avvicinarsi. Al di qua dell'oceano si gioca la guerra fredda dei canestri, come spiega Pierluigi Marzorati, tra i protagonisti di quello storico successo azzurro. La nazionale veniva dall'argento delle Olimpiadi di Mosca, e quindi c'era un po' un desiderio di rivincita per battere sia la Russia che la Jugoslavia, diciamo, erano le due regine del basket europeo, per cui aver vinto quell'occasione è stato un po' andare contro questi due Moloch, e quindi credo che l'opinione pubblica ha vissuto questo successo proprio come un qualche cosa di piccolo che andava a sradicare un potere da forse 20-30 anni che era in mano a queste due potenze. E dire che la marcia verso il torneo europeo era stata tutt'altro che facile. Ma poi il coach Sandro Gamba, con i suoi collaboratori, tra cui Riccardo Sales e il grande Cesare Rubini, dà la svolta alla squadra, decidendo di convocare tre registi, diversi e complementari. Nel precampionato giocavamo male, non riuscivamo a vincere tornei, non riuscivo a trovare la quadra del gioco, e quindi credo che proprio in quel momento lì sia nato la voglia di non far brutta figura, di inventarsi qualche cosa anche da parte di Gamba, e è venuta fuori questa soluzione in cui, con caratteristiche magari anche un tantino diverse, perché non so, mentre io avevo un ruolo di coordinamento iniziale, Bruno Monti era più un problemi è che era atletico e invece Cagliaris era più uno che faceva viaggiare la palla col gioco da fermo, quindi c'era un po' tre ruoli che in vari momenti in cui scendeva in campo uno dei tre dava un indirizzo alla squadra un po' diverso rispetto agli altri, e quindi chiaro che l'alchimista era Gamba che ha saputo scegliere nei momenti giusti i tre giocatori da mettere in campo, insomma. La squadra è fatta. Per qualcuno, come Charlie Cagliaris, esserci è una rivincita anche nei confronti dell'allenatore. Nell'80 c'erano le Olimpiadi di Mosca, all'ultimo allenamento, prima di scegliere la squadra per andare alle Olimpiadi, mi scartò. La cosa ovviamente mi fece male, perché allora giocavo nella Virtus, quell'anno la squadra aveva vinto il campionato e quindi ritenevo dentro di me di meritare posto in squadra. Doveva essere la mia prima Olimpiade, ero incazzato come una bestia perché ci tenevo a fare un'Olimpiade, però nonostante questa amarezza incominciai a stimarlo, perché comunque sicuramente in quel momento io non ero in forma e apprezzai questa sua onestà. Ho sempre detto che in Gamba ho prestato l'onestà intellettuale, perché non era uno che scendeva a compromessi. Siete sempre in ritardo o vi mettete a pari della palla? Bisogna andare davanti alla palla e poi farsi fare sfondamento, non di fianco voler stoppare. Gamba sa quando alzare la voce per tenere in pugno il gruppo. La 1 con tutte le partenze e la numero è la C. La C! Andiamo! Andiamo! Andiamo! All'esordio ci tocca subito la forte Spagna di campioni come il playmaker Corbalan e San Epifanio, temibile tiratore. Ma vinciamo di un punto, 75-74, grazie a un canestro all'ultimo secondo proprio di Marzorati. Abbiamo vinto all'ultimo secondo con un canestro fortunoso, diciamo, ecco, perché quando si gioca sul pallone che ballonza 3-4 volte sul ferro e poi va dentro, c'è stata una carica psicologica che è stata fondamentale per tutto il torneo. L'Italia continua alla grande. Svezia, Grecia e Francia vengono spazzate via. La sfida decisiva per entrare in semifinale è con la Jugoslavia. È la rivincita della finale olimpica di Mosca di 2 anni prima, vinta dagli slavi. Ma stavolta gli azzurri hanno la meglio. 91-76 in una gara anche di nervi. Dino Meneghin, bandiera della nostra pallacanestro e pivot simbolo di quella squadra. Quella Jugoslavia era più o meno la stessa, fatta di quei grandissimi campioni che avevano fatto la storia della pallacanestro mondiale. Quindi in quel momento loro erano anche in fase calante e noi li battemmo e alla fine i nervi scattarono proprio a loro e ci fu una rissa memorabile, con coinvolte tutte e due le panchine, massaggiatori compresi. Sandro Gamba rivive così quei momenti al microfono di Flavio Suardi, che al coach azzurro ha dedicato una biografia. Io ho fatto l'ultimo sprint della mia vita per prendere Kicianovic, non l'ho preso però perché lui è saltato oltre la tribuna dei giornalisti, come quasi tutta la squadra jugoslava. Sì, Gorbovic ha beccato la forbice della cassetta del massaggiatore e si era presentato in campo con le forbici. I suoi stessi compagni l'hanno fermato. L'Italia va avanti. Gli azzurri mettono in mostra un giovanissimo Antonello Riva, guardia dal tiro e dal fisico micidiale. E poi Romeo Sacchetti, il duo della Virtus Bologna-Villalta Bonamico, Gilardi da Roma e i solidi Costa e Vecchiato sotto canestro. E a sciogliere la tensione fuori dal campo ci pensa Dino Meneghin, che bersaglia di scherzi l'amico Marzorati. Io stesso sono stato vittima una volta di una sua intervista che si simulava un giornalista, di un periodista spagnolo, mi ha fatto un'intervista in spagnolo, quindi mi ero spacciato per un giornalista deportivo della Hora Deportiva de Madrid, però l'ho beccato al mattino quando era un po' assonnato e ho cominciato a fargli un'intervista sempre parlando in spagnolo e lui rispondeva in spagnolo e poi alla fine l'ho chiamato per noi, dico Piero, e gli ho fatto una pernacchia sonora e gli ho detto guarda questo qui è uno scherzo, e lui dopo essere stato mezz'ora al telefono con me fa no, ma l'avevo capito subito che era uno scherzo, ho continuato così. C'era cascato con tutti gli scarponi e il cappello anche. In semifinale affrontiamo l'Olanda, che battiamo con un netto 88-69. La sorpresa arriva però dall'altra semifinale, con gli spagnoli che superano la favorita Unione Sovietica. In finale quindi sarà ancora Italia-Spagna. Gamba punta tutto su una difesa feroce e tanto contropiede. Noi sappiamo che non sarà una partita tanto facile, però noi lo vogliamo mettere sempre sul nostro ritmo, cioè difesa sempre aggressiva, di contatti, tant'è che Díaz Miguel, l'allenatore loro, si era lamentato perché dicevano los italianos palpanos, palpavamo in difesa, perché una delle regole che io mettevo era quella di che l'avversario deve sentire sempre il difensore attaccato. Occhio al pressing, attenzione al pressing. Allora, dopo ogni canestro, attenzione, dopo ogni canestro segnato, personale segnato, la rimessa la fa Pierino, Bonamico e Gilardi sulla riga del personale, Spitz e Renato come adesso. A un certo punto del primo tempo noi andiamo sotto di 12 o 13 punti, ci riprendiamo, rimontiamo, andiamo avanti, però a metà del secondo tempo eravamo sempre lì, un punto noi, un punto loro, non era molto chiara. Poi mantenendo sempre un certo contegno in campo, contegno nel senso senza mai perdere la testa, senza mai fare degli sbagli grossolani, noi riusciamo ad andare avanti per un certo punto. Lì la cosa anche che viene scritta sulle antologie è che tutti i giocatori in panchina sono entrati. Gli ultimi istanti di quella partita nella telecronaca di Aldo Giordani, con l'emozione a caldo dell'allora presidente della Federbasket Vinci. 103-94, lasciamo terminare la partita per darvi tutta la documentazione cronistica di questo storico evento. Poi faremo parlare anche i commenti. 103-94, 8 secondi da giocare, l'Italia è campione d'Europa. Con questo tiro libero di Bruno Monti andiamo a 104, abbiamo 10 lunghette di vantaggio, dicevo prima che non siamo solo i campioni della difesa, ma facciamo anche più di 100 punti, viva Dio! 105-94, Corbalan, 5 secondi, lasciar tirare, segna Corbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita, l'Italia ha vinto 105-98 ed è campione d'Europa. È il 4 giugno 1983. L'Italia del basket è campione d'Europa. L'immagine della gioia è Charlie Cagliaris che alla sirena finale corre all'impazzata per il campo, baciando la palla a spicchi. In quel momento è stato un risultato che ci ha permesso di trovare un riscontro nell'opinione pubblica importante. Ci sono stati poi in quegli anni dei risultati importanti anche a livello di club come Cantù che ha vinto 2 Coppe dei Campioni, c'era anche Milano che poi è partito con una serie di risultati a livello europeo molto importanti con il trio d'Antoni, Medellin e Raccadù. Credo che sia partito un certo discorso che poi ha creato anche antagonismo su Roma-Milano, quindi il basket ne ha potuto beneficiare, insomma. E ancora oggi tra i canestri azzurri risuona l'eco di quella magica notte di Nantes. A bordo campo. Mai in Formula 1, il tempio dei record e dei primati, un numero 27, stampato su una Ferrari, era stato così amato. Perché quel numero era il marchio di fabbrica di Gilles Villeneuve, il canadese che seppe entrare nel cuore di Enzo Ferrari e dei tifosi della Rossa in appena 5 anni, tra il 1977 e il 1982. Perché Villeneuve era emozioni, ricerca dell'estremo, duello, adrenalina pura, come quel pomeriggio del 1979 a Digione, Gran Premio di Francia, quando lottò fin sotto la bandiera a scacchi con la Renault di René Arnoux. E pensare che in palio c'era solo il secondo posto. And Arnoux does it, does he? And Villeneuve knocks up. and Villeneuve has had to go wide, and Arnoux's on the inside as they go round Villeroy. He's got the shot. Jetzt liegt der Herold von Jochen Maas vor Villeneuve und Arnoux. Arnoux versucht jetzt den gleichen Angriff wie vorhin Villeneuve. Arnoux innen. Secondo voi alla fine chi ha avuto la meglio? Gilles, naturalmente. Villeneuve is at the moment. Arnoux is in third position. Colleghi e tifosi lo chiamavano l'aviatore, per la sua guida spericolata, sempre al limite, e per gli incidenti di cui spesso era protagonista nella ricerca costante di spazi infinitesimali dove infilarsi per sorpassare. Spesso la sua Ferrari letteralmente volava sulle altre vetture, per atterrare a terra e distruggersi dopo l'ennesimo sorpasso impossibile tentato. Ma Gilles usava l'ironia per rispondere ai critici. Sono molto poco macchina, sono distrutto un Imola l'anno scorso e uno in Giappone in 77 credo, che è veramente distrutto. Le macchine che perde ruote o una Letton è una cosa molto diversa. Io credo quando io fa un incidente dentro la stampa o dentro la televisione o dentro le testa delle gente è come se io ho fatto 5 incidenti. Incidenti, rischi al limite, ma anche vittorie. Nel 78, al primo anno in Ferrari, dopo aver preso il posto di un campione come Niki Lauda, vince proprio in Canada, a Montreal. E nel 79, con 3 successi, è fedele scudiero di Jody Scheckter nella cavalcata verso il titolo mondiale. L'80 è un anno difficile, ma nell'81 infila una splendida doppietta. La vittoria in Spagna preceduta dal prestigioso trionfo a Monte Carlo. La Ferrari ha dunque vinto il Monte Carlo. Gilles Villeneuve a 4 giri dalla fine ha superato Alan Jones. La Ferrari torna così ad assaporare la gioia del grande successo. Era dal 1979 degli Stati Uniti che una vettura di Maranello non offriva agli italiani la più ambita soddisfazione dell'automobilismo sportivo. La vittoria, sempre e comunque, era l'unico obiettivo di Gilles, il traguardo l'unico ostacolo che potesse fermarlo. Nell'81 Enzo Ferrari in persona impone la tattica di gara per il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. C'è da sviluppare il nuovo propulsore della rossa. Mauro Forghieri, dal 62 all'87 responsabile, poi direttore del reparto corse di Maranello, a fianco di Gilles per tutta la sua carriera. Noi gli montammo il motore, lui era, mi sembra, in seconda o terza fila, no, terza fila, perché avevamo ridotto le prestazioni dei motori per non romperli tutti, perché allora non si aveva 30 motori di scorta. Quindi io vado sulla linea di partenza e gli dico: Gilles, tu sai quanto è importante per il commendatore sapere il risultato di questo motore, un motore speciale, te l'abbiamo detto, scusami se ti disturbo. Lui mi ha detto: ma io sono un professionista, mi stai dicendo delle cose che conosco. Dico: sì, però sai, nella partenza si è sempre molto presi, dico, quindi tu devi stare particolarmente, non preoccuparti della corsa, non è molto importante questa per noi, perché c'è difficile vincere, c'è difficile arrivare più in là di un terzo o quarto posto, tu devi cercare di finire la gara. Ma sì, ma me l'hai detto, insomma, tu credi che io non ti abbia ascoltato, insomma una discussione amichevole, ma per noi molto importanti. 1, 2, 3, pronti via. Zandvoort, dopo un piccolo rettifilo, c'è la curva Tarzan, no? Che è una curva abbastanza difficile. Lui è arrivato là, che era quasi primo, però anziché fare la curva è andato a finire dentro il cartellone. Resosi conto di quello che aveva fatto, non è venuto al box a parlarmi prima di 40 minuti. Nell'82 Gilles Villeneuve punta ancora al titolo mondiale, ma la sua Ferrari soffre e al posto dell'amico Scheckter è arrivato fin dall'anno precedente il francese Pironi, con cui i rapporti sono cordiali ma tutto sommato freddi. E anche Gilles è diverso rispetto a quel pilota esordiente che seguiva il circus della Formula 1 in camper con tutta la famiglia al seguito. Oscar Orefici, autore del libro Ferrari, il romanzo di una vita. Villeneuve era cambiato nel frattempo, non era più quel ragazzino col volto da scugnizzo e il fisico da fantino che viveva così alla giornata in maniera semplice. Villeneuve si era comprato un villino Liberty a Monte Carlo, uno chalet nelle Alpi francesi, aveva il suo elicottero personale, insomma tutti i gadget tipici dei piloti di Formula 1. Ma non solo, era entrato anche in crisi il suo rapporto con la moglie. Pare che volesse divorziare per una prosperosa americana e che lo trattenesse solo l'affetto per i suoi figli. Ma Villeneuve voleva anche divorziare dalla Ferrari, perché ricordiamoci che la Ferrari, dopo la grande exploit del 79, si era dedicata alla vettura col motore turbo, quindi con grandi difficoltà perché questa vettura vincesse. Enzo Ferrari lo pungola. Villeneuve risponde come a pochi era permesso di fronte alle osservazioni del cavaliere. Ferrari dice che tu con l'elicottero, la piscina così, non hai più il piede pesante che avevi. Je pense pas qu'il ait dit ça, non. No, l'ha detto a Pino Allievi, al collega Pino Allievi della Gazzetta, quando gli ha consegnato il premio Dino Ferrari, e gli ha detto che per lui Villeneuve non è più il Villeneuve dell'anno scorso, perché adesso ha l'elicottero, ha la piscina, ha i soldi, pensa alle banche, come Scheckter non diventerà più campione del mondo. Ha poco soldi, allora deve ancora avere il piedi pesante. Il Gran Premio di San Marino a Imola nel 1982 doveva essere l'occasione della rinascita. Divenne il momento del tracollo definitivo. Villeneuve domina e corre in testa verso la vittoria. Pironi prima lo segue, poi lo incalza e infine lo supera a pochi giri dal traguardo. Tra le due rosse è duello fratricida all'ultimo sorpasso e alla fine è il francese ad avere la meglio. A Gilles, furioso, resta solo la rabbia, come spiega Mauro Forghieri. Gilles era una persona pura, vorrei dire innocente nel senso buono della parola. Lui non avrebbe mai potuto pensare che qualcuno non si comportasse in modo onesto con lui come lui lo faceva con gli altri. Quando c'era 1, 2, 3 pronti via, l'agonismo, la gara per lui era superiore a tutto. E poi lui aveva una fiducia in se stesso, ho detto una forza della natura, per cui credeva sempre di riuscire da qualsiasi situazione senza problemi. Ecco perché non accettò lo sgarbo, diciamo così, che gli fece Pironi a Imola nel 1982. Gilles Villeneuve, 90 ore dopo Imola. Gilles, è passata la rabbia e è rimasta la febbre o no? Rimasta la febbre? Ah sì, io come ha detto a fine gara, mi ha rubato questa gara e penso ancora così. Non cambi idea, Gil, giusto? No, non va a cambiare idea, è un fatto giusto. Se ti riguarda i tempi della gara, tu vedi veramente che io ho ragione su questo. Ormai tra Gilles e Didier è guerra. L'8 maggio 1982 si corrono le prove del Gran Premio del Belgio a Zolder. La pole position di Alain Prost è inarrivabile, ma Gilles vuole tentare l'impossibile per fare meglio di Pironi. Sono le 13.52 quando la sua Ferrari prova a superare la Marche numero 17 del tedesco Jochen Mass. L'impatto inevitabile è tremendo. La Ferrari numero 27 si solleva verso il cielo. Gilles è scaraventato contro le reti di protezione. I soccorsi e il volo in elicottero verso l'ospedale di Lovagno sono inutili. Alle 21.12 la moglie Joanna autorizza i medici a staccare il polmone d'acciaio, che lo tiene ancora in vita. Il mondo della Formula 1 piange questo piccolo canadese di 32 anni che dalla guida delle motoslittere è arrivato fino al volante di una Ferrari. Il giorno dei funerali nella cittadina di Berthierville, in Quebec, dove la parabola di Gilles era cominciata, le parole più dolci sono quelle di Jody Scheckter, amico di una vita. He was the fastest racing driver that history has ever known. He went doing something that he loved. Thank you. penserà Jacques Villeneuve, il figlio di Gilles, a conquistare nel 1997 quel titolo mondiale che al padre era sempre sfuggito. Ma nel mito, allora come oggi, resta Gilles, come spiega Oscar Orefici. Il mito nasce dalla morte. Villeneuve, come James Dean, che divenne un mito nonostante ancora non fosse esploso come una star di Hollywood. Si è tramandata la sua leggenda come un poema epico. Io credo che è stato tutto un cocktail di tanti fenomeni, di tanti episodi che hanno portato ad essere Villeneuve un mito inossidabile. Io gli ho voluto bene, disse di lui Enzo Ferrari. Parole uniche per quello che Ferrari considerava un figlio e un pilota degno erede sulla rossa del grande Nuvolari. Se uno è un talento naturale, può fare il corridore. Non lo diventa. Bisogna essere dei talenti naturali per essere dei piloti all'apice.